Adesso questo interminabile assolo di Genesis, solo un po' alla vecchia, che posso ufficialmente dirvi che mancano una ventina di secondi alle 7 del mattino. Buona giornata Spadino, complimenti. Il nostro regista che sa sempre dove mettere le mani sul mixer a quest'ora della giornata. Una nuova avventura ci si presenta di fronte, un nuovo martedì, un martedì 4 di settembre da affrontare a denti stretti. Una buona giornata dalla voce del DJ Ariele, che ringrazia, saluta il collega Chuck Bird e le sue tazze di caffè nero bollente, perché a quest'ora, come ogni giorno, riprende la diretta con pane e burro e rock and roll. Pane, burro e fantasia, tanto buon rock and roll per il vostro risveglio mattutino con Mister Trombetta. Pane, burro e rock and roll, e non solo, la mucca Camilla, la tua colazione rock, Roberto Fricantoni forse, pane, burro e rock and roll. E voi là fuori ci siete? Via! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM, questo è il motto che tiene banco a pane, burro e rock and roll, già programma di culto. Due ore di diretta come non ne trovate in giro per l'etere, garantisce Mister Trombetta. Abbiamo salutato tutta la squadra di pane, burro e rock and roll con un forse sul maestro Roberto Fricantoni, che arrivando da Bologna, al quale arrivando da Bologna concediamo sempre qualche prezioso minuto di ritardo, cosa che non concediamo invece a voi là fuori. Buona giornata, questo è l'obiettivo, augurarvi una buona giornata anche quest'oggi, ricordandovi, perché no, già in apertura un numero di SMS attraverso il quale potrete interagire con noi di Rock FM, nello specifico 335 100 77 77. Da fuori qualcuno si chiederà, sì, vabbè, ma che vuole questo qua? Perché ci dovrei mandare un messaggio? Beh, perché io ringrazio immediatamente. Con cosa posso ringraziare se non con della grande musica? Come si fa qui a Rock FM, no? Buona giornata. roll. Sì, pronto. Che inizione col botto quello di quest'oggi. Young Lust, ladies and gentlemen, the Pink Floyd, solo grande musica sulle frequenze di Rock FM. Anche per quest'oggi tenteremo di tenervi compagnia fino alle 9 del mattino, orario nel quale poi passeremo le chiavi della baracca al collega Marco Garavelli, che vi accompagnerà fino al mezzogiorno. Formula della colazione di Rock FM dovreste conoscerla molto bene: tanta buona musica e un po' di demenza, così qua e là, sparsa come il vento che sembra attanagliare Milano quest'oggi. Non so come possa essere dalle altre parti dove si prende il timido segnale di Rock FM. È ventoso anche lì. È importante, il momento meteorologia a quest'ora della giornata è sempre fondamentale. Seconda puntata della nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll, nella quale tenteremo di prendere ancora le distanze. Ieri, in un momento così di improvvisazione, ho ricordato come fare la radio sia un po' come andare in bicicletta. In realtà non è vero, o comunque per quanto sia vero, un paio di giri te li devi rifare, no? Cioè, anche... anche la bicicletta, se è, non lo so, un bel po' di tempo che la fai, non è che parti subito in impennata, no? Un paio di giri te li fai per riprendere un attimo la situazione. E quindi siamo un po' al rientro, ancora ai saluti. Una delle novità instaurate ieri è questo brano che cercherà di tenerci compagnia tutta la settimana. Ieri l'ho programmato alle 8 precise, cosa che presumo di fare anche quest'oggi, a meno che Spadino non abbia da ridire. Here Comes the Sunday Beatles, ma ora è tempo di Fleetwood Mac, questa è Gypsy. To the mentre torna la luce sulla città, Fleetwood Mac con... era carino come inizio, no? Non ti è piaciuto, Suadino? Sembrava poetico, romantico. Così, mentre il sole s'alza, noi ci gustiamo Gypsy di Fleetwood Mac nella diretta. 7 e 11 minuti primi. Da ieri abbiamo lanciato, tra le altre novità, la possibilità di ascoltare la trasmissione andata in onda di Pane, Burro e Rock and Roll quasi in tempo reale grazie alle moderne tecnologie e grazie soprattutto al nostro sito internet www.radiorockfm.com. Questa è una delle prime novità. Al termine delle dirette di ogni giorno, connettendosi sul nostro sito internet, potrete riascoltare i pezzi che vi siete persi, nel caso voi ve li siate persi, oppure potete riascoltare quello che avete sentito se vi piace talmente tanto da non fare a meno di riascoltarlo tutto il giorno, cosa che sappiamo accade nostro malgrado. Programmi in archivio, ci trovate già la puntata di ieri e più tardi, tra qualche ora, troverete anche la puntata di quest'oggi. Il tutto è stato architettato soprattutto per il momento apice, il momento quiz della nostra trasmissione, quello che solitamente chiamiamo test attitudinale, che avviene tra le... verso le 8:30, ecco, per intenderci, qualche minuto prima, qualche minuto dopo, e molti di voi si lamentarono che, insomma, riuscivano a fare a tempo solo a sentire la domanda e non la risposta. Da oggi sono tutti problemi superati, perché, ripeto, trovate il tutto sul nostro sito internet. Problema invece irrisolto è quello che ci siamo cacciati addosso questa estate, lanciando l'appello a salvare la cartolina postale. Il problema prima di questa estate era salvare la cartolina postale, il problema da oggi è dove mettere tutte queste cartoline che stanno continuando ad arrivare con impeto sempre crescente. Cioè, verso metà agosto eravamo qui con la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, sembrava che tutto stesse andando bene, le cartoline arrivavano con regolarità. Da qualche giorno stanno arrivando di più e la cosa è un filo preoccupante, ma la promessa è stata fatta, le leggeremo tutte quante a costo di farci licenziare e quindi abbiamo materiale da qui fino al Natale del 2011, presumo. L'indirizzo è sempre lo stesso, via Locatelli 1, 20-124 Milano. Ma sì, voi continuate a mandarle, tanto a noi piacere fa sempre un botto, per dirla in endecasillabo, così. Mentre per voi, cari amici tornati sulla macchinetta a quest'ora, cari gruppi d'ascolto nel traffico, caro gruppo d'ascolto Uomo Cane, caro gruppo d'ascolto Bambino Fai in Fretta che dobbiamo andare all'asilo, se stavate cercando qualcosa di forte, beh, l'avete trovato. È Rock FM, Immigrant Song, Led Zeppelin. Il falsetto a quest'ora non mi arriva, mi viene, scusate. We'll be right back. corso di questa torbida estate noi abbiamo lanciato l'appello: salvate la cartolina postale, e voi prontamente avete risposto. Come spiegavamo, dedicheremo tutte queste prime settimane di dirette di Pane, Burro e Rock'n'Roll a ringraziare ognuno dei nostri amici e delle nostre amiche che ha inviato una cartolina al nostro indirizzo. Avevamo già spiegato che abbiamo catalogato, manco Darwin, tutte le cartoline che sono arrivate. Leggevamo del reparto sex l'altra mattina, quest'oggi andrei nel reparto immagini. Immagini. Che c'è? Immagini. Oltre al mare, natura, ci sono anche immagini. Immagini immaginifiche. Immagini immaginifiche. Ce le vuole descrivere, maestro Roberto? Sì, sì, qui abbiamo due cartoline molto diverse. Quella di sinistra, che proviene da Bologna. Si è messo in un mare di guai. Bologna. Sì, il timbro è postale. Almeno di il timbro postale è firmato Rocchettaro 67. E il timbro riproduce un tatuaggio. Sì, un tatuaggio su una spalla, un tatuaggio inquietante, delle una specie corna, di fiamme. Sì, sì, una specie di demone. Esatto. E la cartolina infatti ci chiede è abbastanza rock questa cartolina, appunto? Direi di sì. Tutta fatta in casa, anche il francobollo. Attenzione, perché il francobollo è fintissimo, Frick, guardi, è tutto, è solo ritagliato. Ma dai! Ma abbiamo colpo di scena, le Poste Italiane non si sono accorte. Rocchettaro 67 l'ha fatta in barba alle Poste Italiane, saluta tutta Rock FM e conclude: al mare si sta bene, ma mi manca tanto la radio. Grazie Rocchettaro 67 e grazie soprattutto per l'idea. Stampate francobolli finti e spedite le cartoline. Grazie Rocchettaro. Passiamo alla seconda cartolina, reparto immagini, ce la descriva, sì, per favore. Beh sì, sembra la foto, o meglio un disegno iperrealista, sì, di un giovane così di belle speranze. Qualche anno fa. Sì, un giovane con qualche annetto sulle spalle. Sicuramente rocker. Sicuramente rocker tutt'oggi, sicuramente dal passato rock, questo lo possiamo dire, che ha una maglietta con su scritto sex, che viene in qualche modo cancellato, drugs and rock and roll. Nel senso che probabilmente la sua vita da rocker è stata più dedicata alle droghe e al rock and roll. Forse in questa sua ultima parte, perché esatto, non è più giovanissimo, un po' tempato, con una chitarra classica nella mano destra e una pinta di birra nella mano sinistra. Decisamente rock anche questa di cartolina, dove andiamo a ringraziare Frank e Michele, dico bene? Tanti sì, saluti dalla Corinzia. Fino in Corinzia è andata a trovare questa cartolina. Complimenti. Purtroppo sono del 61, ci sto arrivando pian piano anch'io. Risata obbligatoria. E allora grazie anche a Frank Michele per questa cartolina. Sex, drugs and rock and roll. Tra l'altro citando anche la nostra trasmissione. Complimenti attività, ragazzi. Avantissimo. Grazie a Rocchettaro e grazie a Frank Michele. Vi saluteremo, vi ringrazieremo tutti ogni giorno su Pane, Burro e Rock and Roll. Grazie per aver rivalutato la cartolina postale. Questa Lazy di Deep Purple, 7:26 minuti primi. Se state ascoltando in diretta, un orario a caso, invece se state riascoltando in streaming su RadioRockFM.com, l'Ariele Fricantoni e Spadino, la squadra di pane, burro e rock and roll, nella quale ogni giorno potrete entrare e far parte anche voi, cari gruppi d'ascolto sintonizzati sulle frequenze di Rock FM, grazie al 335 100, stavo dicendo quello vecchio, 335 100 77 77. Tra poco cercherò di salutarvi e tra l'altro quasi quasi vi darei un appuntamento tra pochissimo, perché nella puntata di ieri il rientro di pane, burro e rock and roll non ci siamo cantati Led Sunshine, che in realtà è stata bandiera della prima stagione di pane, burro e rock and roll. Io porrei rimedio immediatamente cantandomela a squarciagola alle 7:30. Vi va? Way! Ciao! Ciao! Oh, che spesa hai fatto! E tu? Sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Questi ragazzi vivrebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste. Come questa. Pane, burro e rock and roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, burro e rock and roll. Nutre bene con la sua semplicità.